10:30, siamo precisissime nei nostri programmi perché iniziamo adesso la presentazione del volume L'Italia postcoloniale, curato da Cristina Lombardi Diop e Caterina Romeo. Abbiamo qui in studio con noi Caterina Romeo, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo, insomma, per essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. E abbiamo anche un'altra voce, insomma, piuttosto nota da questi microfoni. Buongiorno anche a te. Siamo sempre noi, buongiorno. E appunto abbiamo annunciato quella presentazione di questo volume, che presentazione che abbiamo, come dire, caldamente voluto a questi microfoni, perché riteniamo, insomma, che sia un volume utile, importante, e che faccia insomma, che sia molto utile in quel bagaglio, in quella cassettina di attrezzi di cui cerchiamo di dotarci per portare avanti lotte politiche, culturali e sociali, insomma, in questo paese e non solo. Ma cominciamo magari a raccontare chi è Caterina, e che sono Caterina e Cristina le curatrici di questo volume. Assolutamente sì, sono, appunto, diciamo, dicevi giustamente, autrici di un volume importante per noi, pionieristico e insomma con un significato politico fondamentale in questo momento storico in Italia. Sono due studiose che, appunto, si occupano di studi di genere e di studi postcoloniali da diversi anni, da due lati diversi del mondo. Da una parte, appunto, abbiamo Cristina Lombardi Diop, che non può essere qui con noi oggi perché, appunto, insegna negli Stati Uniti alla Loyola University di Chicago, insegna studi italiani e studi di genere, e si è occupata appunto di ricerche nel campo degli studi storici sul colonialismo, degli studi critici sulla razza, delle letterature delle diaspore africane, e tra le sue pubblicazioni in italiano più recenti ricordiamo il volume curato insieme a Gaia Giuliani per Le Monnier proprio l'anno scorso, che si intitola Bianco e Nero, storia dell'identità razziale degli italiani. E insieme a lei il volume che presentiamo oggi, L'Italia postcoloniale, è curato appunto anche da Caterina Romeo, che abbiamo il piacere di avere qui in studio e che insegna come ricercatrice studi di genere e letterature comparate alla Sapienza qui a Roma. Caterina è autrice di Narrative tra due sponde, memoir di Italiane d'America pubblicato da Carocci nel 2005, e di molti altri saggi che trattano appunto i temi dell'emigrazione, dell'immigrazione, delle intersezioni tra genere e razza. È stata più volte nostra ospite qui negli studi di Radio Onda Rossa, e insomma è un piacere averla qui per parlare direttamente con lei dei temi affrontati in questo volume. Grazie molte per questo invito, sono molto molto contenta di essere di nuovo qui in radio, e quindi vorrei innanzitutto ringraziare Radio Onda Rossa. Vorrei anche cominciare salutando Maddalena, sempre, e poi vorrei ringraziare due persone che raramente abbiamo la possibilità di, o comunque capita raramente di ringraziare, che sono Giulio Corsi e Severin Queyras, per averci dato le due fotografie che appaiono sulla copertina di questo volume nella versione americana e sul volume appena uscito in Italia. Sì, diciamolo, questo volume che presentiamo oggi è fresco di stampa, appunto appena pubblicato in Italia, ed è in realtà in parte una traduzione e in parte una riscrittura del volume che invece avevate pubblicato negli Stati Uniti con il titolo Postcolonial Italy. Quindi magari quando poi entreremo nel vivo degli argomenti ci spiegherai anche quali sono le differenze tra queste due diverse versioni del libro. Io comincerei subito, insomma, a entrare nel vivo e a spiegare innanzitutto di che si parla, insomma, parlando di Italia postcoloniale. Certo, allora questo volume è un volume sulla contemporaneità, e questo è per me e per noi, diciamo, dirò per me, però insomma interpreto anche quello che direbbe Cristina, che non è con noi oggi. Per noi è una cosa molto importante, nel senso che questo volume intende indagare i collegamenti tra la società e la cultura italiana del presente e il passato coloniale italiano, e anche non soltanto coloniale. E questo lo dico perché quando abbiamo fatto, come abbiamo detto prima, la versione americana di questo volume, che si chiama Postcolonial Italy, che è uscita prima della versione italiana, che è uscita solo qualche settimana fa, mentre il volume americano è uscito a dicembre del 2012, quando abbiamo raccolto i contributi per quel volume, ci sono arrivati molti contributi che parlavano del colonialismo e del, in qualche modo, dell'Italia coloniale, e sono dei contributi che noi non abbiamo inserito, non abbiamo incluso, anche se erano interventi molto validi, proprio per il fatto che noi non volevamo soltanto indagare sul passato coloniale italiano, ma vedere in che modo quel passato si ripercuote sul presente, si ripercuote sulla vita quotidiana, sulle pratiche culturali quotidiane di tutti i giorni. E quindi il colonialismo poteva essere un punto di partenza, ma non volevamo che fosse il punto di arrivo. Sì, dicevamo infatti, preparando questa trasmissione, che i temi trattati nel libro, lo vedremo insomma con degli esempi pratici, ci riguardano tutte e tutti, non sono appunto soltanto questioni teoriche che riguardano un pubblico accademico, ma perché hanno delle ripercussioni sulle vite quotidiane di chi vive in questo paese, sia di chi appunto nasce in Italia, sia di chi arriva dal sud del mondo, soprattutto insomma in base anche al suo posizionamento specifico in termini di colore della pelle, classe, eccetera. Però appunto, per capire di cosa stiamo parlando, forse sarebbe, ti chiederei, Caterina, di aiutarci a spiegare che cosa significa postcoloniale, che cosa intendiamo per postcoloniale, perché ovviamente io immagino che per chi ci ascolta l'idea più immediata sia che postcoloniale significhi semplicemente ciò che viene dopo il colonialismo, invece non è proprio così, no? No, non è proprio così, anche questo ovviamente, perché se parliamo di postcoloniale ovviamente c'è qualcosa che ha a che fare con il colonialismo, però più che pensare alla relazione diretta tra una ex madrepatria e le sue ex colonie, e il rapporto dunque che segue tra queste due parti una volta che la colonia del colonialismo è finito, bisogna pensare piuttosto invece al sistema politico, economico e sociale che il colonialismo ha messo in piedi a livello mondiale, e con gli effetti che tutto questo ha nel presente. Faccio un esempio per capire di che cosa stiamo parlando. Quindi, per esempio, quando parliamo di postcolonialismo italiano, non parliamo soltanto delle relazioni che l'Italia del presente ha con le nazioni che sono state colonizzate dall'Italia, e quindi l'Eritrea, la Somalia, la Libia, l'Etiopia, parte della Grecia, per un periodo l'Albania. Non stiamo parlando soltanto dei rapporti con questi stati, e quando parliamo di immigrazione postcoloniale non parliamo soltanto dei migranti che vengono da queste regioni del mondo, ma parliamo della migrazione che deriva appunto dal sistema sociale economico attuale, che in qualche modo è una conseguenza di quello che è successo durante il periodo del colonialismo e del sistema economico, che quel economico politico che quel colonialismo ha messo in piedi. Per fare un esempio su quello che voglio dire, mentre io e Cristina stavamo raccogliendo i saggi per la versione americana del volume, ci hanno contattato delle studiose svizzere che stavano invece mettendo insieme un volume che è uscito da pochi mesi, che si chiama Postcoloniale Schweiz, quindi la Svizzera postcoloniale, che era insomma, che per noi è stata una cosa molto interessante, per il fatto che, come sappiamo, ovviamente la Svizzera non ha mai avuto un impero coloniale, no? Ciò nonostante, loro appunto scrivono della natura postcoloniale della Svizzera. E questo si rende l'idea di come appunto la condizione postcoloniale non riguardi soltanto chi ha avuto un possedimento coloniale. Ci fermiamo per una breve pausa musicale per poi andare avanti entrando proprio nel vivo dei temi trattati in questo volume. Esce 43 minuti primi dell'87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo in studio con Caterina Romeo, che è una delle due curatrici dell'Italia postcoloniale, un volume uscito per Le Monnier da pochi mesi, stavamo appunto parlando con Caterina, anzi Caterina ci stava raccontando che cosa significa postcoloniale, e per riprendere ancora insomma questo discorso, visto che in Italia quella del postcoloniale è una categoria abbastanza giovane, insomma, nel senso che è arrivata da poco e quindi non viene masticata da molti e molte, approfondiamo ancora un po' questo discorso. Dunque, stavamo dicendo che ovviamente quando parliamo di postcoloniale non ci riferiamo soltanto a una dimensione temporale, cosa che indicherebbe la parola post, cioè non è soltanto tutto ciò che viene dopo il colonialismo, ma invece indica piuttosto un venire al posto di, oppure un parlare contro discorsi egemoni che sono stati presenti nel dibattito culturale, e quindi allo stesso tempo c'è un senso di continuità con il passato, oltre che un senso di frattura. Il termine è un termine molto dibattuto e anche molto controverso, perché ci sono moltissimi studiosi, molte persone che pensano che postcoloniale dia l'idea del fatto che il colonialismo e tutto ciò che il colonialismo ha significato non sia più presente, siamo oltre, no? Siamo post, che invece bisognerebbe parlare di neocolonialismo e basta. E anche il fatto di dire postcoloniale così come precoloniale, altri studiosi e studiose sottolineano il fatto che questo in qualche modo fa del colonialismo il momento centrale della storia di un paese, che invece appunto prima di essere coloniale aveva una sua struttura e una sua cultura che niente avevano a che fare con il colonialismo. La terminologia, come sappiamo, è sempre problematica, nel senso che ovviamente per una cosa che dico sempre in classe, per una cosa che includi ce n'è sempre qualcuna che viene lasciata fuori, però il termine è per quello che nel volume, nell'introduzione che io e Cristina spieghiamo, ci soffermiamo a lungo per dire appunto che cosa intendiamo con questo termine. Una delle cose fondamentali è proprio il fatto che i soggetti di scrittura cambiano, cioè che nella letteratura, per esempio, postcoloniale, i soggetti che scrivono sono dei soggetti che spesso vengono, appunto, che sono dei migranti oppure delle seconde generazioni, quindi che hanno origine nel mondo coloniale, che ci raccontano, e questa è la cosa fondamentale, delle storie diverse dalle storie che noi abbiamo imparato dalla nostra letteratura e dai nostri libri di scuola. Per esempio, un esempio è quello di Gabriella, mi viene in mente questo, di Gabriella Ghermandi, che in questo stupendo libro che si chiama Regina di Fiori di Perle, un romanzo uscito nel 2007, riscrive in qualche modo la storia della resistenza etiope, che è una storia che noi non abbiamo imparato dai nostri libri di storia e dalla nostra letteratura. E di questo magari parleremo anche dopo, insomma, di quanto noi che siamo cresciuti in questo paese non conosciamo il passato coloniale, insomma, di cui è stato responsabile il paese in cui viviamo e di cui siamo cittadini e cittadine. E siccome appunto non lo sappiamo, no, anche per parlare di questo volume forse bisogna tornare lì, insomma, da questi microfoni ne abbiamo parlato più volte, in realtà c'è una responsabilità storica molto grossa, non solo quella di averlo agito il colonialismo, ma anche poi quello di averlo nascosto, perché in Italia dell'esperienza coloniale italiana si parla molto poco, non so, forse dopo il 45 c'è stato un po', come dire, si è utilizzato il fatto che era stato il fascismo a fare, diciamo, l'esperienza coloniale, e quindi la Repubblica se ne è un po' lavata le mani. In realtà poi le avventure coloniali, come dicono i colonialisti, non sono state soltanto dell'Italia fascista, ma anche prima, insomma, nell'Italia liberale. E comunque questo fatto di averlo cancellato, per esempio, dai libri di testo di storia, perché sono pochissimi quelli che ne parlano, è una responsabilità di chi invece c'è stato dopo il 45 in questo paese. Quindi, insomma, tutto questo discorso per dire che forse è bene anche ricordarci, in sintesi, che cosa è stato il colonialismo italiano. Allora, do veramente due informazioni per capire, insomma, più o meno del periodo storico di cui stiamo parlando. Come dicevi tu, infatti dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stata un'equazione tra il fascismo e il colonialismo, mentre invece il colonialismo inizia ben prima del fascismo. Si parla di solito di colonialismo liberale e colonialismo fascista. L'acquisizione dei primi territori in Eritrea è del 1882 da parte dello Stato italiano, e l'Eritrea diventa una colonia nel 1890, quindi siamo ben prima del fascismo. La colonizzazione della Somalia viene formalizzata nel 1905, tra l'11 e il 12 quella della Libia e poi nel 1936 quella dell'Etiopia, e queste sono appunto le colonie africane dell'Italia, che sono state tutte poi perse durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 41 Eritrea, Somalia, Etiopia nel Corno d'Africa, e nel 43 la colonia della Libia. Quindi quella appunto l'avventura coloniale, tra molte virgolette, italiana, dura appunto dagli anni 80 alla subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove anche le isole del Dodecaneso e l'Albania vengono appunto, che dove c'è stata una breve occupazione, vengono rese anche queste colonie nel 43, ma questa volta all'esercito tedesco. Una cosa secondo me che è molto importante sottolineare, e che io e Cristina sottolineiamo nell'introduzione, il fatto che l'impresa coloniale italiana inizia più o meno nello stesso periodo, anzi in un periodo molto molto vicino al periodo delle grandi emigrazioni italiane, che poi è un periodo anche molto vicino all'Unità d'Italia. Quindi, per ricordarci due date, l'Unità d'Italia si attua tra il 1861 e il 1870, gli anni 70 dell'Ottocento sono gli anni in cui inizia la grande emigrazione dall'Italia, e ricordo appunto il fatto che dal 1876 al 1976 l'Italia ha esportato 26 milioni di migranti, costituendo la più grande emigrazione di tutti i tempi da uno Stato, e quindi è che nel 1882 appunto c'è l'acquisizione dei primi territori coloniali. Quindi questo è molto importante secondo me, secondo noi, per capire come l'identità italiana si sia costruita non soltanto a livello nazionale, quindi voglio dire non soltanto all'interno dei confini nazionali, ma moltissimo anche a livello transnazionale. E infatti si parla anche nella nostra introduzione, che in qualche modo è proprio una teorizzazione del postcoloniale italiano, parliamo anche di colonialismo emigrante, il termine è di Nicola Labanca, storico del colonialismo. Parliamo di colonialismo emigrante perché appunto una delle modalità del colonialismo italiano era proprio quello di andare a cercare terre d'oltremare, no? Una quarta sponda, e quindi c'è stata in qualche modo una equiparazione dei due movimenti, quello migratorio verso, insomma, emigrazioni importanti, anche molto rappresentata, come quella verso gli Stati Uniti d'America, ad esempio, che una parte di questa emigrazione si è diretta anche verso l'Africa, creando un tipo di colonialismo che è molto diverso dal colonialismo militare più tardo. Fenomeni fondamentali, perché appunto all'inizio ho detto che questo è un volume sulla contemporaneità, ma bisogna anche dire che una cosa su cui ci interroghiamo in questo volume, su cui si interrogano con noi i 16 contributi che sono stati inclusi, è proprio in che modo si forma il senso di identità italiana. Quindi questo senso di identità italiana, che include allo stesso tempo l'emigrazione, il colonialismo emigrante, ma anche per esempio la condizione postcoloniale interna, la condizione di subalternità del Sud, che è anche insomma la questione anche centrale appunto in questi anni, e poi tutto questo si ricongiunge all'immigrazione. Sì, in questo voglio dire l'attualità è proprio anche un'attualità della storia, insomma. Mi vengono in mente due punti su questo. Uno, proprio su quello che stavi dicendo adesso, cioè il fatto che anche la legislazione attuale italiana rispecchia esattamente quello che dici, perché se da una parte non riconosce niente a chi viene qui proveniendo da altri paesi, addirittura insomma fino all'altro ieri c'è stato in vigore il reato di clandestinità, dall'altra parte invece riconosce tutto a chi è figlio, nipote, pronipote di emigranti italiani, no? La legge elettorale sulla cittadinanza, e anche della legge elettorale in particolar modo. Questa impostazione storica viene riproposta esattamente dall'attualità. L'altro aggancio molto facile è quello, insomma, della vicenda di Affile e del monumento a Graziani. Cosa ha significato tutto questo? Cosa significa ancora? Se ne è riparlato anche molto di recente, anche da questi microfoni, perché il 1° aprile si è celebrato il processo nei confronti dei tre ragazzi che erano stati accusati per aver imbrattato il mausoleo a Graziani. Questi tre hanno scritto su questo mausoleo: chiamate eroe un assassino, quindi dando una descrizione di un dato di fatto. Sono stati assolti peraltro, e da questi microfoni ne abbiamo parlato molto. C'è stato anche ospite Davide Conti, che è uno storico e che ha approfondito la figura di Graziani, ma credo insomma che valga la pena riprenderlo per capire come in questo caso tra storia e attualità c'è una continuità molto palese. Credo, scusami, aggiungo solo un'altra piccola notazione rispetto al discorso sulle politiche internazionali dell'Italia. Ad esempio, le relazioni politiche con la Libia di Gheddafi, mi viene in mente, no? A cui viene affidato il ruolo di gendarme che dovrebbe fermare l'immigrazione prima dell'attraversamento del Mediterraneo, lo sfruttamento delle risorse, la creazione di zone franche in paesi appunto sull'altra sponda del Mediterraneo. E cioè, in tutto questo si può parlare appunto di neocolonialismo, come diceva prima Caterina, e quindi forse conoscere la storia è utile anche per analizzare il presente. Ma sì, sicuramente. Allora, due questioni che avete posto, entrambe secondo me fondamentali. La prima è sui processi di memorializzazione, no? Non è importante soltanto quello che è successo, ma come quello che è successo viene tramandato, no? Ci ricordiamo tutti il personaggio di 1984 di George Orwell, che appunto aveva il suo lavoro era quello di riscrivere la storia, quindi quello che succedeva veniva riscritto, veniva tramandato alle generazioni future in maniera diversa da quello che era scritto. Quindi i processi di memorializzazione, cioè come uno Stato crea la propria memoria storica, sono una cosa fondamentale. E quindi vediamo che da questi processi di memorializzazione, se da una parte leggevo proprio ieri appunto una cosa che scriveva Nicola Labanca su questo, se da una parte gli storici, no, la storia, gli studi postcoloniali italiani, a differenza di quelli delle colonie britanniche, dell'impero britannico, che cominciano dalla letteratura, gli studi postcoloniali in Italia cominciano dalla storia, no? Quindi da una rilettura del colonialismo dal punto di vista storico, per gli studi appunto fatti dai primi storici Giorgio Rochat e Angelo Del Boca negli anni, a partire dagli anni 70, l'apertura degli archivi coloniali, eccetera. Quindi quando abbiamo appreso informazioni che prima non avevamo. Quindi se da una parte c'è stata la decolonizzazione della storia italiana, no? Nel senso che ormai sappiamo che determinate cose sono accadute, che sono stati usati gas sulla popolazione, sappiamo benissimo chi è Rodolfo Graziani. Rodolfo Graziani, come sappiamo, è stato appunto considerato un criminale di guerra. Ciò nonostante, vengono appunto eretti dei monumenti in celebrazione di questo personaggio, e tutta la questione di Affile a cui facevate riferimento è una questione insomma in qualche modo molto importante, e che rivela appunto qual è la posizione dell'Italia rispetto a come ambigua. Non voglio dire che ci sia soltanto quella trasmissione di memoria, ma sicuramente c'è una forte ambiguità, perché da una parte ci sono processi di decolonizzazione, dall'altra sembra invece che appunto queste c'è un'esaltazione di determinati periodi storici. Voglio fare un riferimento breve anche a un altro fatto che per esempio avevo notato quando sono andata a vedere la mostra del centocinquantenario dell'Unità d'Italia. Cioè quella che era alle Scuderie del Quirinale? No, quella che era al Vittoriale. Al Vittoriale, sì. No, perché quella del Quirinale in effetti era su quello, ma era una mostra di pittura. No, proprio quella che c'è stata in occasione del centocinquantenario, che devo dire ci ho portato una classe di più di 100 persone per sbaglio, perché eravamo andati a vedere il Museo dell'Emigrazione, che invece era chiuso, e quindi siamo andati nell'altra mostra, che però insomma dove io pensavo di trovare però rappresentate anche dei fenomeni importanti, no? Se parliamo dell'unità d'Italia e dell'identità italiana che risulta da questa unità d'Italia, secondo me bisognerebbe per forza tenere dentro il discorso dell'emigrazione e quello del colonialismo, che invece era, e quello dell'immigrazione, che invece erano assolutamente assenti. Quindi risulta appunto che l'unità d'Italia è qualche cosa che si è realizzata a livello nazionale, all'interno dei nostri confini, tra persone, senza mai andare da nessuna parte, tra persone che hanno tutti l'aspetto più o meno che abbiamo noi, non che il nostro aspetto sia omogeneo in qualche modo. Quindi questo per quanto riguarda i processi di memorializzazione. Poi la continuità per quello che riguarda, appunto, si faceva riferimento al diritto di voto degli emigrati, al diritto di cittadinanza dei discendenti della popolazione italiana, no? Quindi degli emigrati. E questo sappiamo molto bene anche dell'indifferenza che è sempre stata dedicata anche ai fenomeni emigratori, no? Anche l'emigrazione è una cosa di cui non si parla, le culture che gli emigranti hanno prodotto all'estero è anche una cosa di cui non si parla. Però a un certo punto, secondo me, negli anni 90 c'è stato un volersi andare a riprendere questi italiani che almeno avevano un aspetto simile al nostro, anche se erano andati via, per contrastare di fatto questo attacco all'italianità che arrivava dall'immigrazione, che arrivava dai fenomeni migratori, no? E questo è ribadito moltissimo nella legge sulla cittadinanza, che ancora in Italia è acquisita, è un misto adesso, però diciamo il principio rimane il principio del sangue, quindi rimane un principio biologico la cittadinanza. Ed è per questo che i figli degli emigranti possono ottenere la cittadinanza, perché si ottiene attraverso la discendenza, quindi il sangue, rispetto ad altri luoghi come per esempio tutti gli stati delle Americhe, in cui si acquisisce attraverso la nascita in un determinato posto, no? Quindi questo in qualche modo perpetua una certa logica. Direi che alle 11 e un minuto facciamo un'altra pausa musicale. Oye, dice que dicen que se fue para Europa y cuando llegó, ja, tremenda desilusión. Díselo tú, ruso, ponle. Break your head, lo que te digo aquí es bien real, fácil, solo se trata de vivir. Comprender, resistir, como ave fénix en jaula de oro, revivir. Yo, no ha sido fácil representar en un año las influencias y penurias de este lado, de continente colonizado, explotado, marcado, no voy a... Triste lo que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Triste lo que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Soy yo quien recoge lo que tú no comes. Soy yo quien dejando mis cojones construyo tu esperanza. Puta balanza, no te pones nunca de mi lado. Tengo un hermano peruano, otro chicano, un chileno, un colombiano, un chino, un afroamericano. He construido con mis propias manos ciudades, pueblos, lugares. Me has colonizado y ahora discriminas tú mi raza. Triste lo que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Triste lo que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. ¿Qué fue lo que pasó? Intenta respuesta en su reloj. Emigrantes son personas comunes, corrientes. Oye, mi gente, tener otro color, otra forma de pensar, dos culturas diferentes. Estoy cantando pa' mi gente. Eso que llaman emigrantes son personas comunes, corrientes. Oye, mi gente, lo canto a mi madre buena. Mira lo que lindo suena. Estoy cantando pa' mi gente. Eso que llaman emigrantes son personas comunes, corrientes. Oye, mi gente, pa' mi gente, pa' mi gente. Estoy cantando pa' mi gente. Que ha dejado cicatrices. Estoy cantando pa' mi gente. Y el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Estoy cantando pa' mi gente. Si el estar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace triste. Estoy cantando pa' mi gente. Y el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Estoy cantando pa' mi gente. Si el estar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace triste. Anni fa ci siamo inventati una nazione a misura dei nostri mercati. Abbiamo surfato la terra e sradicato la rivolta dei briganti. Abbiamo creato il fascismo e la mafia. Ucciso studenti e operai. Non è bastato. E abbiamo fatto scoppiare le bombe dell'arancione di Stato. 150 anni dall'Unità d'Italia. Sono 150 anni che banchettiamo con le vostre ossa. Questo spot non può essere accusato di vilipendio della nazione perché chi l'ha fatto non si ritiene parte di nessuna nazione. Questo era, come dire, un contributo della redazione di Radio Onda Rossa al dibattito, era lo spot insomma con cui abbiamo celebrato l'Unità d'Italia ormai 3 anni fa. Torniamo invece in voce dai microfoni appunto di Radio Onda Rossa, stiamo parlando con Caterina Romeo del volume L'Italia Postcoloniale. Ecco, e visto che insomma fino ad ora abbiamo ragionato un po' su l'impianto generale del libro, però per rendere l'idea a chi ci ascolta dei temi affrontati in questo volume, volevo chiedere a Caterina di illustrarci un po' la struttura del libro, come è organizzato, visto che appunto è un libro collettivo con diverse autrici e autori che tra l'altro lavorano insomma in diversi paesi, in un contesto internazionale, con una formazione disciplinare molto eterogenea, e forse il modo migliore per rendere la ricchezza del libro è che proprio tu ci racconti un po' come sono organizzate le diverse sezioni e quali temi affrontano. Certamente, dunque il volume si apre con un'introduzione molto lunga ad opera appunto di Cristina Lombardi Diop e mia, che ha una lunghissima bibliografia, perché due cose cerchiamo fondamentalmente di fare, e Cristina in questa introduzione, la prima è appunto ricostruire il contesto del passato italiano coloniale di migrazione, di sfruttamento del sud, e ricollegarlo alla presente, alla contemporaneità italiana, e l'altra è vedere che cosa è stato fatto, che studi precedono questo libro, e questo mi sembra sempre una cosa molto importante quando si fa un libro, cioè non pretendere di essere i primi che parlano di un argomento, ma vedere chi ne ha parlato prima, in che modo, e soprattutto creando quali connessioni. Il fatto che questo libro, non nella versione italiana ma nella versione americana, Postcolonial Italy, è il primo libro che esce in tutto dedicato all'Italia postcoloniale, non vuol dire che prima non si sia scritto di Italia postcoloniale, però vuol dire che ci sono articoli sparsi, che ci sono dei volumi che parlano di argomenti che sono necessari per capire alcuni aspetti, e quindi cerchiamo di ricostruire tutto questo contesto. Poi il libro è articolato in 5 sezioni, il libro italiano è articolato in 5 sezioni. Nella prima sezione ricostruiamo un po' il contesto transnazionale con 3 articoli di cui appunto il primo è un articolo di Robert Young, che è una appunto delle celebrità del postcoloniale, della teoria postcoloniale in qualche modo, che ci ha omaggiato con questo articolo che è comparso su un blog nel 2005 la prima volta, che è una riflessione sul carattere particolare, peculiare del postcolonialismo italiano. E poi invece gli altri 2 interventi di Sandra Ponzanesi e Teresa Fiore si concentrano su due aspetti molto importanti, che sono: uno sul postcoloniale a livello europeo. Una cosa che prima non ho detta quando ho parlato dell'importanza della continuità storica è anche che un altro principio del nostro volume è quello della prossimità geografica, cioè vedere come la condizione postcoloniale italiana non è una condizione isolata, ma è una condizione condivisa da altri paesi europei, proprio per il fatto che il colonialismo fu un fenomeno europeo e allo stesso tempo extraeuropeo. Quindi c'è questa prospettiva europea, e c'è anche il collegare la condizione il colonialismo italiano appunto all'immigrazione coloniale, anche questo nell'articolo di Teresa Fiore. Poi ci sono altre quattro sezioni dove parliamo appunto, magari non dico tutti i nomi gli articoli, però alcune delle tematiche insomma fondamentali, c'è l'inserimento, questo articolo non è presente per esempio nel volume americano, c'è l'inserimento del discorso sui Rom e sull'integrità del corpo della nazione, ci sono alcune riletture di testi letterari sia postcoloniali sia di testi letterari della letteratura italiana classica, come la lettura che fa Roberto De Robertis di Cristo si è fermato a Eboli, sia in relazione alla postcolonialità italiana sia alla condizione del mezzogiorno. Ci sono articoli sul modo in cui l'impero e le tracce, i frammenti dell'impero vengono disseminati nella storia, nella cultura italiana, quindi in film, nella letteratura, ma anche per esempio c'è questo articolo di Francesco Ricatti che ci fa vedere come questi simboli dell'impero vengono invece risorgono in qualche modo attraverso simboli dell'impero romano prima e fascista dopo, escono fuori nella tifoseria della Roma, quindi nel calcio. C'è un'attenzione su un documentario importantissimo, che è quello Come un uomo sulla terra, che è una produzione appunto, tra gli altri, tra i registi c'è Dagmar Wimmer, che è una testimonianza appunto del viaggio migratorio, a contrasto invece con una certa tendenza a esotizzare l'avventura tra virgolette coloniale italiana, quindi vedere come le voci delle persone che arrivano sono molto diverse dall'idea appunto della memorializzazione, dalla romanticizzazione del colonialismo italiano. Poi abbiamo una sezione a cui noi teniamo molto, che è una sezione sulla razza, che si chiama Relazioni di razza, dove appunto parliamo della post-razzialità, cioè come del fatto che l'Italia, che non ha mai affrontato il discorso della razza in maniera il discorso della razza e del razzismo in epoca contemporanea, si ritenga per dei versi già un paese post-razziale, quindi questa la necessità di arrivare al post-razziale senza passare per una fase razziale come proprio un modo per pensarci oltre, e invece appunto ci sono gli interventi che parlano appunto delle immagini contemporanee del risorgere della Venere nera nel cinema degli anni 70, così come appunto dell'intimità interrazziale nel cinema postcoloniale italiano, ma anche dei processi di razzializzazione, delle rappresentazioni di questi processi nella letteratura. L'ultima. Scusami Caterina se ti interrompo prima, poi riprendiamo insomma a illustrare anche l'ultima sezione, però parlando di razza volevo chiederti di fare insomma una precisazione, perché ovviamente quando usiamo questo termine nel contesto italiano anche dalla radio sappiamo che è un termine connotato dalla storia appunto delle leggi razziali in questo paese, quindi forse è necessario spiegare perché parliamo di razza, anche se sappiamo che le razze non esistono, ecco. Sì, certo. Il riferimento alla parola razza è naturalmente alla razza come una costruzione sociale, no? Quindi non dal punto di vista della differenza biologica e delle teorie appunto biologiche, del biologismo che hanno portato a quello che sappiamo nel secolo scorso, bensì l'idea che i processi di razzializzazione siano dei processi sempre presenti nella nostra società e che questi, il concetto di razza e il modo in cui le persone vengono, i gruppi vengono considerati dal punto di vista razziale, non è una cosa biologica, bensì culturale, bensì sociale, che quindi infatti cambia nei diversi periodi storici, cambia anche per lo stesso gruppo. Se noi pensiamo, questo è un esempio che faccio spesso perché è particolarmente vicino a noi, che gli italiani quando sono emigrati negli Stati Uniti venivano considerati per legge bianchi, questo è vero, però allo stesso tempo venivano razzializzati, venivano considerati tra quei gruppi che Matthew Jacobson definisce come white of a different color, quindi bianchi ma di un colore differente, era un bianco in qualche modo più scuro, e allo stesso tempo sulla pretesa della bianchezza appunto prende corpo in qualche modo i processi di razzializzazione contemporanei. Certo, grazie, no, mi sembrava insomma una precisazione necessaria per chi ci ascolta, perché ovviamente utilizzare il termine significa sempre appunto dargli un significato preciso e va chiarito che ci si riferisce ai processi di razzializzazione. Anche tenendo conto insomma che se esiste il razzismo e il razzismo esiste, è difficile non parlare di razza. Avevamo anche appunto ricordo insomma in altri spazi radiofonici parlato a lungo del fatto che a volte diventa anche un po' ipocrita insomma non utilizzare la parola, ovviamente tenendo conto che sappiamo che biologicamente le razze non esistono, insomma, ma se le persone appunto vengono trattate sulla base di processi culturali, sociali, politici, economici, poi non utilizzare la parola a volte serve per non dire quello che sta succedendo, no? Si usa la parola etnia per esempio sostituendo la razza, certo. E non è che questo cambi molto la situazione. Una cosa lo dico con una riflessione che leggevo ieri di Tatiana Petrovic Niegoš in questo primo capitolo di questo bellissimo libro che si chiama Parlare di razza, in cui lei appunto precisa una cosa che in qualche modo no, dovremmo sempre tenere a mente, cioè parliamo della razza come di una categoria, di una costruzione sociale, quindi di una categoria culturale, in qualche modo quindi stiamo parlando del simbolico. Le ricadute dei processi di razzializzazione tuttavia sono tutt'altro che simboliche, ma invece influenzano nel quotidiano e nel profondo le vite di individui e le vite di gruppi. Quindi ovviamente questa è una cosa che dobbiamo sempre tenere a mente. Il fatto poi, no, quando parliamo, è vero anche che se noi parliamo di razza, e normalmente tendo sempre appunto a dire di razza senza virgolette, nel senso che la razza appunto per razza dobbiamo, quando parliamo di razza dobbiamo parlare della costruzione culturale, e se no lo mettiamo tra virgolette, della costruzione sociale voglio dire, se no lo mettiamo tra virgolette, ci sono però delle implicazioni biologiche che sempre escono fuori, no? Se pensiamo ai programmi, che ne so, di affirmative action, delle quote eccetera eccetera, in quel caso il concetto di razza è un concetto che però ritorna alla biologia. Quindi diciamo che il motivo per cui è così difficile anche parlarne è che la linea non è poi così demarcata, no? Quindi è vero che ci interessa la costruzione sociale, però è vero anche che questa costruzione sociale ha delle implicazioni sulle vite delle persone, quindi usciamo dal simbolico ed è anche, ha anche dei collegamenti con la biologia. Sì, del resto insomma queste politiche, lo dico ma correggetemi se sbaglio, insomma delle quote, cioè sono anche per noi un po' di importazione, insomma nel senso come impianto culturale, no? Insomma, dagli Stati Uniti in particolar modo, dove ci sono appunto quote riservate a studenti per esempio afroamericani o non lo so, di altre minoranze tra virgolette, non so se ci sono anche le quote per le donne nelle università ancora negli Stati Uniti. Ma ci sono anche nelle persone che si assumono nelle università, non soltanto per gli studenti, no? insomma, è, come dire, è una è un'importazione culturale, quindi anche forse per questo noi ci troviamo un po' in mezzo al guado, no? Sì, no, io quando mi riferivo ai programmi che ho definito di affirmative action, mi riferivo proprio ai programmi negli Stati Uniti, no? Quindi che però si basano appunto sull'appartenenza a un gruppo, e quell'appartenenza a un gruppo però di fatto non è una costruzione sociale, ma ci riferisce invece al gruppo proprio dal punto di vista biologico, no? Quindi poi quando la razza viene utilizzata, diciamo così, in positivo, quindi il processo di razzializzazione si mischia in qualche modo. Tornando al libro, ci manca ancora una sezione da presentare. Sono contenta, infatti, perché non volevo che andasse persa questa sezione. No. Anche perché questa sezione è stata una sezione per noi importantissima, perché si riferisce alla si chiama Estetiche e produzioni transculturali, e parla proprio delle produzioni postcoloniali nell'Italia contemporanea. E questa, secondo noi, è il discorso veramente centrale. Cioè in che modo artisti, artiste, intellettuali, scrittori, scrittrici, registi, eccetera, dell'Italia postcoloniale stanno creando delle nuove rappresentazioni. E, per esempio, c'è un articolo su Nollywood, che Nollywood è appunto l'industria nigeriana che produce in Italia dei film che sono fatti ad uso e consumo appunto dei migranti africani, quindi è una produzione di fatto prodotta in Italia, che però non è dedicata a un pubblico italiano, quindi c'è questa esclusione del pubblico italiano, no? Si rovesciano appunto, un po' i ruoli, e questo è molto, appunto, ci sembra molto interessante. Poi c'è un articolo di Sandro Portelli sulle musiche migranti, sul fatto che la musica popolare urbana a Roma è diventata appunto la musica migrante, e c'è un interessantissimo articolo sulle seconde generazioni e sull'hip hop, quello che Clarissa Clow definisce hip hop, in cui appunto il concetto di identità italiana delle seconde generazioni è appunto un'identità che viene assunta attraverso pratiche culturali e la vita quotidiana, anche se di fatto questa appartenenza alla nazione viene negata proprio in base al principio del mancato ius sanguinis di cui parlavamo prima. E a proposito di pop, facciamo una pausa musicale con una traccia hip hop, che è Lo Straniero. Io sono il numero zero, facce diffidenti quando passo lo straniero, in sclero, teso vero, testo scuro, picchio la mia testa contro il muro, sono io l'amico di nessuno e stai sicuro, resto fuori dalla moda e dallo stadio, fuori dai partiti e puoi giurarci io non sono l'italiano medio, ma un cane senza museruola, la NE, la WFA passa parola, Cico canta che ti passa ma non mi passa più, testa bassa, la repressione mi butta giù, schiaccia, quando lo sbirro mi dai pugni nella faccia, per me lo Stato è solo stato di minaccia, quando vedo il tunisino all'angolo che spaccia, la nera presa a schiaffi dal magnaccia, io so che è tutto made in Italy, perciò non chiedermi se canto Forza Italia o no, no, no, no. È la mia posizione, è di straniero nella mia nazione, no, no, no. È la mia posizione, è di straniero nella mia nazione, no, no, no. È la mia posizione, parlate allo straniero e lo guardate male, e ogni singolo secondo la tensione sale, e sangue misto non rispetta più il confine, viene da dove era stato cacciato fuori come un cane, ora non ci sto, non ci credo e non ne voglio più, solo disprezzo per lo Stato e le divise blu, scrivo come Neffa, a zero grado di fiducia, quando la terra brucia, allarme rosso per le strade, non sei più sicuro, tu stavi chiuso in casa ed è crollato il muro, quindi adesso è tutto pronto per lo scontro, con chi viene da fuori e non ci sta più dentro, quello che mi è andato da quando sono nato l'ho pagato, e ho visto ogni due anni una strage di Stato, è un rompicapo ma dubbi sui mandanti non ne ho, sono lo straniero, questo è quel che so, e no, e no, è la mia posizione, è di straniero nella mia nazione, e no, e no, è la mia posizione. Yeah. bambino. La gente nella classe mi chiamava marocchino, terrone, muto. Torna un po' da dove sei venuto, e questa è la prima roba che ho imparato in assoluto. La seconda è che sei fatto negli stati in cui ti siedi. Quando sento la pressione dalla testa ai piedi, la situazione per me non cambia, era merda e resta merda. Cani della strada, razza bastarda, alla sbarra sotto accuse ed ogni giorno c'è un buon motivo. E la giuria ha già detto e il mio verdetto è negativo. Straniero nella mia nazione, perché qualcuno vuol mettere fine alle storie di un guaglione. La tensione in strada sale a mille, vivo questa situazione sopra la mia pelle. Giorno dopo giorno, notte dopo notte resto allerta, guardo le mie spalle anche se la strada è deserta. Stesso film, stessa storia, ne fa già salvato quindi resta in memoria. È un guaglione, mette a fuoco il suo pensiero, resto fuori perché io sono lo straniero. E no, la mia posizione è di straniero nella mia nazione. The Hall. Zango the White. Torniamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa. Stiamo parlando con Caterina Romeo del volume L'Italia postcoloniale, curato da lei e da Cristina Lombardi Diop, è uscito nel 2014, proprio un mese fa, all'inizio di marzo, per i tipi di Lemonnier, ma molto avanti. Noi in realtà l'abbiamo già fatta 3 mesi fa la presentazione, ma e niente, insomma, torniamo in sì, torniamo a parlare discorso di questo libro. Insomma, forse qualche osservazione che possiamo fare, ecco, avendolo letto in anteprima per voi, è che una delle insomma dei valori aggiunti di questo libro è che ha, appunto, l'abbiamo visto scorrendo gli argomenti trattati nei diversi capitoli, nelle diverse sezioni, è che diversamente da altri testi che insomma sono stati pubblicati in questo ambito degli studi postcoloniali italiani, è che appunto la struttura, l'organizzazione del volume è decisamente fondata su un impianto interdisciplinare, che quindi mette in relazione diversi campi del sapere, già un fatto insomma poco comune per una pubblicazione accademica in Italia, e soprattutto insomma la capacità di attraversare queste diverse discipline connettendo i vari argomenti di studio e di ricerca in base appunto a delle tematiche comuni che però vengono affrontate e sviscerate attraverso linguaggi diversi, no? I media, appunto la cultura popolare, dai fumetti al tifo calcistico, dal cinema alla musica hip hop o la musica popolare urbana, appunto la letteratura e il cinema rivolto ai migranti stessi, oppure invece pensavo a, appunto, le rappresentazioni di genere nella blaxploitation all'italiana, no? Insomma, tutti temi che sono connessi non dalla impostazione disciplinare dello studioso o della studiosa che le analizza, ma da il significato politico di, appunto, quali sono i soggetti che prendono parola, che producono una riflessione, un prodotto estetico, e anche insomma la capacità di riconoscere, appunto, un valore di estetico a prodotti della cultura popolare che in genere non fanno parte del non sono insomma oggetti di studio all'interno dell'università italiana, se non in rari casi, ecco. Sicuramente il fatto che in Italia ci sia stato un'influenza molto ridotta di quelli che nel mondo britannico vengono chiamati cultural studies, no? Che fondamentalmente avvicinano la cultura alta alla cultura bassa, o meglio vanno oltre la domanda se stiamo parlando di cultura alta o di cultura bassa, ma viene considerata la produzione culturale in quanto tale, quindi non è importante capire se dal punto di vista artistico la Divina Commedia è più importante o ha un valore per la cultura più centrale di un di Regina di Fiore di Perle di Gabriella Germandi, per esempio, no? Ci interessa capirli come dei momenti appunto della cultura italiana, e questo ovviamente vuol dire anche che questo è una delle motivazioni, avere questo approccio nel volume vuol dire anche appunto il fatto di creare un libro transdisciplinare dove non dedichiamo le sezioni, come insomma avete sentito sono delle sezioni tematiche dove non vengono dedicate che non vengono suddivise né per il mezzo di comunicazione, quindi non c'è quella di letteratura, quella di cinema e non c'è neanche appunto per discipline, bensì è proprio diversi temi come vengono trattati in ambiti diversi, quindi nella letteratura, nel cinema, nei fumetti, eccetera, eccetera. E poi forse c'è un altro aspetto che ti chiederei di illustrare meglio, che vorrei sottolineare, mi sembra molto importante proprio in relazione a quanto questo libro ci aiuti a comprendere la contemporaneità, e cioè il fatto che voi riuscite a connettere diversi momenti storici, diverse fasi della costruzione dell'identità nazionale italiana, andando ad analizzare come i processi di razzializzazione si costruiscono appunto in relazione a non solo l'emigrazione di massa transoceanica di fine 800 inizio 900, ma anche appunto i processi di razzializzazione subiti da le persone meridionali sempre nella fase di costruzione dell'identità nazionale italiana, così fino ad arrivare invece a i processi di razzializzazione, le forme di sfruttamento ad esempio che subiscono i braccianti africani oggi nel meridione, inserite nel contesto appunto delle migrazioni globali transnazionali e dei processi del capitalismo globale, per cui da qui si comincia a, credo insomma, se non l'abbiamo detto abbastanza chiaramente fino adesso, a capire che questo libro ha un significato politico profondo per comprendere la realtà in cui tutte e tutti siamo immerse. Sì, una cosa veramente centrale nell'introduzione, anche proprio nel libro, il fatto di tenere, come ho detto prima, questi fenomeni così importanti per la storia dell'Italia tutti insieme, ma non tutti insieme soltanto nel senso che avvengono nello stesso tempo, nel senso che questi processi sono dei processi intersecati. Per esempio adesso tu ti riferivi ai processi di razzializzazione e il modo in cui questi avvengono nei processi emigratori durante il colonialismo rispetto ai meridionali in Italia e nell'Italia contemporanea durante appunto rispetto ai fenomeni dell'immigrazione sono delle cose che sono dei fenomeni che sono assolutamente interrelati e correlati. Faccio riferimento uno su tutti, mi perdonino gli altri, attraverso la lettura Roberto De Robertis nel suo saggio, attraverso la lettura di un classico della letteratura italiana come Cristo si è fermato ad Eboli, tiene appunto insieme appunto da una parte il fascismo, dall'altra l'emigrazione, quindi il fatto che lui stava in un sud che, dove appunto tornavano degli oggetti che erano degli oggetti che venivano spediti dalle persone che erano emigrate, e porta alla razzializzazione del sud naturalmente, quindi a come venivano considerati i meridionali dal punto di vista razziale, dal punto di vista della razza proprio, e riconduce tutto questo ai sistemi di sfruttamento dell'Italia meridionale rispetto ai migranti in epoca contemporanea, per andare a finire agli episodi di Rosarno. E tutto questo viene tenuto insieme in un unico discorso. Mi rifaccio, mi viene in mente un altro saggio, sempre mi perdonino gli altri, che è quello di Teresa Fiore, che appunto, partendo dal doppio significato della parola colonia in ambito italiano, nella lingua italiana, cioè il fatto che la colonia si riferisca al colonialismo, ma che si riferisca anche ad un gruppo di emigrati italiani in un altro stato, quindi una colonia e la colonia italiana no, di, che ne so, che ha poi affondato Little Italy, le varie Little Italies negli Stati Uniti, partendo da questo termine, che è lo stesso in ambito nell'ambito dell'emigrazione e nell'ambito del colonialismo, crea un concetto di postcoloniale che lei scrive in maniera diversa: postcoloniale quando si riferisce al colonialismo, post tra virgolette coloniale quando si riferisce alla colonia, nel senso della colonia, quella che lei chiama colonia emigrante. E questi due discorsi poi vengono riagganciati perché analizza un documentario in cui degli emigrati italiani in Brasile, generazioni dopo, proprio in base al fatto che hanno acquisito la cittadinanza italiana, come dicevamo prima, per il fatto di essere figli di italiani, decidono di ritornare in Italia, di andare in Veneto, e pensando appunto che l'Italia li riconoscerà come cittadini italiani a pieno titolo. Laddove invece, se da una parte loro sono considerati dal punto di vista legale come dei cittadini italiani, dall'altra nell'esperienza quotidiana vengono in qualche modo equiparati agli immigrati illegali tra virgolette dal Brasile, che quindi hanno una condizione di subalternità. E tutte queste situazioni non si possono analizzare indipendentemente una dall'altra, ma bisogna necessariamente analizzare tutta l'intersezione. E direi che sentiamo ancora una traccia musicale e poi torneremo in voce per arrivare alla chiusura di questa presentazione. Stranieri in ogni nazione è la traccia che andiamo ad ascoltare. Zango the White. Original Arabi, made in Italy. All'elementari io e mio fratello Fari eravamo fra i rari extracomunitari, coi Kidane e Mari Amlor e Ridrei Habesha rappresentavano gli africani. E là noi siriani, mashallah, i visi balli dell'Islam. Intanto più crescevi più ti rendevi conto dell'ignoranza, della mancanza di sostanza. In sostanza mi chiedevano Zanco, cazzo ti serve fare Ramadan? E man mano danzavo fra un Saddam e un Abdullah Ocalan. Talebano, torna a Baghdad nel tuo stato. Ed è là che mi sono domandato cosa vorrei fosse associato il concetto di immigrato, l'esperienza di venire il mio braccio armato. Parte di me come il corpo nel reato. Siamo la seconda generazione, stranieri in ogni nazione. In ogni azione c'è un'espressione di international integrazione. Siamo seconda generazione, stranieri in ogni nazione. In ogni azione c'è un'espressione di international integrazione. Mi vedi più Ago Zago, ti sembra uno di qua, un italiano nella media. Poi mi chiedi a cos'è dovuto un nome così strano. La mia risposta è che il mio DNA è siriano di Hamama, Milano, la mia città è da quando il mondo è mondo. Non ho mai creduto che doppia nazionalità potesse essere un conflitto di identità. Nulla a che fare con un handicap, è open mind, open personalità. Ora bacio mai, baby, openerà, perché camperà cent'anni chi si fa i cazzi sua mane. Camperà doppio chi più ne sa, chi ha la curiosità di capire come il mondo e come il mondo va. Per questo ringrazio Dio, alhamdulillah, perché mi ha dato questa possibilità. Siamo la seconda generazione, stranieri in ogni nazione. In ogni azione c'è un'espressione di international integrazione. Siamo seconda generazione, stranieri in ogni nazione. In ogni azione c'è un'espressione di international interazione. Quando mi capita di tornare a mon pays d'origine, la serie mi paese, di mi dico nasa ente zehdi hadasan comini mna anna rap hai musica di magianine. Mi guardano strano, non è un po' largo il tuo jeans, ma sei nostrano. E se lì rispondo di sì, quasi mi mostrano la mano. Yammin hlef giura sul corano, poi li saluto con assalamu alaikum. E lì capiscono che sono il compa esano, cresciuto un po' lontano nel tamtam occidentale quotidiano. E di anno in anno imparo pian piano, non di rado, a conciliare ogni mia peculiarità di italo, arabo e di musulmano. Per me è meglio l'interculturalità, perché integrato non vuol dire assimilato. Siamo seconda generazione, stranieri in ogni nazione, in ogni azione un'espressione di international interazione. Seconda generazione, stranieri in ogni azione, in ogni nazione, in international interazione. Seconda generazione, stranieri in ogni nazione, in ogni azione un'espressione di international interazione. Seconda generazione, in ogni nazione, stranieri in international. Altro elemento centrale nel volume di cui non abbiamo parlato fino adesso, ma che invece mi preme sottolineare, è il fatto che se da una parte la categoria della razza è molto centrale, dall'altra anche la categoria del genere è centrale, soprattutto in alcune sezioni piuttosto che in altre, e soprattutto nell'intersezione con altre categorie, come ad esempio quella di razza, come ad esempio quella di cittadinanza e di nazionalità. E, il discorso del genere è un discorso che appunto in ambito coloniale ha una posizione assolutamente centrale. Molti teorici e teoriche hanno appunto detto che il concetto di penetrazione coloniale in qualche modo era legato al concetto di penetrazione, il concetto di penetrazione di una nazione era legato al concetto di penetrazione dei corpi delle donne, e quindi questo discorso è un discorso che ritorna anche proprio nelle rappresentazioni in riferimento alla Venere nera che facevate anche voi prima. È proprio un vedere come la Venere nera viene in qualche modo fatta rinascere nel cinema italiano degli anni 70 nei film di Zeu di Araia. Questo è un articolo di Rosetta Giuliani Caponetto, e viene fatto tutto questo proprio per promuovere in qualche modo una immagine di docilità e un'immagine di sottomissione che contrasti il movimento femminista degli anni 70, in cui appunto le donne italiane sono considerate così aggressive. Ma non soltanto in questo modo il genere viene messo in una posizione centrale, ma anche nell'analizzare appunto la posizione delle donne migranti rispetto a concetti come nazionalità, cittadinanza e possibilità lavorative. E posso aggiungere, insomma, che su questo c'è il tuo saggio in particolare, che visto che non lo dici tu, insomma, lo voglio sottolineare io, in cui analizzando le opere di alcune scrittrici postcoloniali africane italiane, tu metti in luce anche le relazioni di potere che si stabiliscono tra donne bianche e donne nere nell'Italia contemporanea, che è, insomma, un nodo cruciale per mettere in discussione un concetto come quello di sorellanza globale, che è stato caro a gran parte del femminismo bianco occidentale, che è necessario appunto decostruire anche oggi da una prospettiva femminista qui in Italia. E quindi, insomma, mi sembrava importante sottolineare. Grazie per questa osservazione. E arriviamo proprio in conclusione, sono le 11:42, insomma, stiamo parlando con voi da più di un'ora di questo libro che noi riteniamo interessante, e lo riteniamo anche soprattutto utile anche, come dicevamo all'inizio, proprio per costruirci degli strumenti di analisi e anche di intervento politico e sociale nella contemporaneità, nei territori in cui viviamo. E questo libro su questo, per questo noi lo riteniamo molto utile, perché come dire, esce in un'assenza di dibattito, esce in un'assenza di presa di parola che caratterizza l'Italia. Questo sia per quanto riguarda per esempio la scuola, dove l'accennavamo anche prima, si parla molto poco per esempio di colonialismo, è assente la categoria del postcoloniale, e quindi si finisce per esempio di parlare di immigrazione in termini spesso buonisti, senza una profondità storica, senza senza mettere in campo come dire, le dinamiche economiche legate all'immigrazione, all'eredità coloniale, eccetera eccetera. Un'assenza che è nel dibattito pubblico, quella della categoria del postcoloniale, un'assenza che, questo lo chiedo più a te di quanto lo dico io, che è anche nelle università di questi argomenti, ma come dire, anche di queste metodologie. Dunque io rispetto a questo mi voglio sempre concentrare sulle cose che ci sono, no? Piuttosto che su quelle che non ci sono, però sicuramente bisogna dire che insomma questi studi hanno ancora una posizione molto marginale all'interno dell'Accademia. Sono degli studi, come dicevate anche voi prima, che ci arrivano in Italia dall'ambito anglosassone, per molto tempo in Italia hanno analizzato l'ambito anglosassone, quindi la lettura postcoloniale dell'Italia. Italia, che è un fenomeno contemporaneo. Ci sono degli studiosi che stanno facendo questa un'operazione estremamente interessante, molti di questi in Italia, solo per citarne due, sempre mi perdonino tutti gli altri, Leonardo De Franceschi e Franca Sinopoli, che hanno curato dei volumi molto importanti appunto sul postcoloniale, sul paradigma postcoloniale italiano. Certamente è importante che questi temi non soltanto siano visibili, e questi sono dei temi che normalmente interessano molto agli studenti, ovviamente, perché parlano loro del loro mondo e della loro contemporaneità, quindi è importante però anche che vengano che il loro status venga riconosciuto anche proprio a livello accademico in maniera più forte. Sì, certo, per ora non è così, insomma, bisogna ammetterlo che non si fanno delle carriere nell'università italiana insegnando queste questioni, anche se insomma noi te lo auguriamo, però sappiamo quanto sia difficile. E però insomma, dicevamo, noi invece ci tenevamo a dedicare uno spazio a questo libro, proprio perché ci sembra che ci offra degli strumenti utili anche per le nostre lotte concrete, per capire il mondo in cui siamo immersi e per portare avanti dei percorsi insomma nella nostra quotidianità, no? Vi ricordiamo quindi che abbiamo parlato dell'Italia postcoloniale a cura di Cristina Lombardi Diop e Caterina Romeo, che è uscito nel 2014 per Le Monnier, e troverete questa presentazione in podcast sul sito della radio www.ondarossa.info. E detto questo, non ci rimane che ringraziare Caterina per questa sua presenza qui in radio. Grazie a voi, grazie dell'invito, grazie dell'attenzione. E lasciarvi a un'altra traccia musicale prima di andare invece a sentire cosa sta succedendo a Porta Pia, dove la campata è iniziata ieri in attesa della manifestazione di sabato. Vi facciamo ascoltare Kenny Arcanà, perché parlando di questi temi ci sembra che prima o poi vada ascoltata, ecco. Thank you.